Sezione 5 di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Maria Nera. Alla Regina d'Italia, 20 novembre 1878. Onde venisti? Quali a noi secoli sì mite e bella ti tramandarono? Fra i canti dei sacri poeti, dove un giorno, o regina, ti vidi, nelle ardue rocche quando tingeasi ai latin soli la fulva e cerula Germania, e cozzavan nel verso nuovo l'armi tra lampi d'amore, seguiano il cupo ritmo monotono trascolorando le bionde vergini, e al ciel con neri umidi occhi impetravan mercè per la forza. Over nei brevi dì che l'Italia fu tutta un maggio, che tutto il popolo era cavaliere, il trionfo d'amor gia tra le case merlate, in sulle piazze liete di candidi marmi, di fiori, di sole, e, o nuvola che in ombra d'amore trapassi, l'Alighieri cantava, sorridi, come la bianca stella di Venere nell'April novo surge da vertici dell'Alpi. Ed il placido raggio sulle nevi dorate frangendo ride alla sola capanna povera, ride alle valli d'Uberta Florida, e all'ombra dei pioppi risveglia gli usignoli e i colloqui d'amore. Fulgide bionda, nella damantina luce del serto tu passi, e il popolo superbo di te si compiace, qual di figlia che vada all'altare. Con un sorriso misto di lacrime la verginetta ti guarda, e trepida le braccia porgendo ti dice, come a suora maggior, Margherita! E a te, volando la strofe arcaica nata nei fieri tumulti, libera tre volte ti gira la chioma con la penna che sa le tempeste. E salve, dice cantando, o Inclita, a cui le grazie corona cinsero, a cui si soave favella la pietà nella voce gentile. Salve, o tu buona! Sinché i fantasmi di Raffaello ne puri vesperi trasvolin d'Italia e fra lauri la canzon del Petrarca sospiri. Fine della sezione 5. Registrazione di Marzia Maria Nera.